Calabria, Sicilia, dovunque legnano, ognuno di ferruccio al cuore la mano, i bimbi d'Italia si chiama Balilla, il sonno mi squilla, i vestri suono. Sono giunchi che piegano le spade vendute, già l'aquila d'Austria le penne ha perdute. Il sangue d'Italia, il sangue polacco, beve col cosacco, ma il colle bruciò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte.